Gran Premio d'Ungheria. Massa è stato spettacolare al via e supera le due McLaren. Si sta confezionando una vittoria autorevole e la conquista della testa del campionato, perché Hamilton lo insegue ma non guadagna. Poi la gomma anteriore sinistra dell'inglese si sgonfia e per Massa si prepara il trionfo. Ma pochi chilometri dall'arrivo la beffa, il motore cede e il brasiliano deve lasciare proprio davanti ai box. Si fa luce Kovalainen con la seconda McLaren, vince precedendo l'ottimo Glock con la crescente Toyota, e Raikkonen che, svantaggiato dalla posizione di partenza, sesto, fatica a recuperare pur con una vettura veloce, certo non inferiore alla McLaren. Quanto ad Hamilton, ripartito in decima posizione, recupera e arriva quinto, conservando la testa di un campionato sempre più aperto. L'inglese mantiene la prima posizione con un 62 punti contro 57 di Raikkonen e 54 di Massa. Prepariamoci il 24 agosto sul neonato circuito cittadino di Valencia a un nuovo confronto nel quale la Ferrari deve partire senza dubbi e senza timori, perché le rosse sono state velocissime.